prego, guardami. Io sono qui ad aspettarti. Ascoltami. Ti prego, ascoltami. Sei la mia vita, il mio alto rifugio. Ho bisogno di te. Voglio stare con te, Signore. All'ombra delle ali tue voglio dimorare. All'ombra delle ali tue voglio riposare solo con te. All'ombra delle ali tue.